Benvenuto a questa serata speciale, ringrazio i nostri ospiti che sono arrivati numerosi e in effetti un tavolo così raramente l'abbiamo visto, con tante ospiti, tante signore, e in primis abbiamo con noi Lidia Della Pace, che ha fatto e fa tuttora la storia di questa terra, non solo, ma appunto è un personaggio di grande rilievo anche a livello nazionale e è ancora portatrice di valori, di battaglie e di tanti principi che seguiamo e che ci accompagna anche in numerose iniziative della nostra biblioteca. Infatti non è la prima volta che abbiamo l'onore di averla come ospite, ma ci troviamo spesso e la ringrazio di questa assiduità. La serata è particolare ed è una delle ultime che noi organizziamo prima della pausa estiva, ha un titolo: Anita, Ada, Lidia e le altre storie di donne resistenti nella nostra regione. È stata pensata in particolare dalla sezione ABI di Bolgiano, e qui con me il presidente Guido Margheri, ed è una delle tante iniziative che organizziamo insieme con l'associazione da anni, con grande piacere e sempre con nuovi stimoli anche per la lettura. Abbiamo preparato una vetrina con i libri che possono essere legati al tema di questa sera. Non sono tutti, non è esaustiva, perché lo dicevo prima anche ad alcune persone, tanti libri sono fuori in prestito, quindi arriviamo a fare le vetrine, però ci mancano dei libri perché le persone li chiedono e vogliono prepararsi. Con noi questa sera sono anche presenti Michela Zucca, che è antropologa, è qui con me, ed è, viene da Macinisolo Balsamo, esperta soprattutto di storia femminile, ci accompagnerà in questa particolare serata con la sua professionalità. Ci sono poi Sara Castellani e Paola Ortelli come testimoni e Dario Benegoni, che ci ha portato anche una relazione e ci saprà illustrare appunto la storia di queste donne, di questi partigiani. Vi ringrazio, cedo la parola a Guido Margheri e vi invito anche a tornare qui da noi al Centro Trevi, nella sala sottostante dove c'è la biblioteca. La prossima settimana alle ore 18, con una mostra sulle bombe su Bolzano nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, si conclude la nostra attività, che verrà sospesa, questa attività di promozione alla lettura verrà sospesa nel periodo estivo e riprenderà poi in settembre. Grazie a tutti e grazie ai nostri ospiti. Grazie a Valeria Trevisan, grazie al personale della biblioteca, senza il cui prezioso aiuto l'iniziativa non avrebbe potuto essere. Intanto c'è già una piccola novità, come dicevamo prima con una battuta, ci sono 5 relatori di cui un solo uomo e 4 donne, e questo per l'ARPI è motivo di grande soddisfazione, perché inverte un passato che invece era un pochino orientato in altro modo. E credo che sia importante anche perché il nostro tentativo con questa iniziativa era partire da una data importante, perché è una donna importante che ha fatto delle cose molto importanti, con molta semplicità, con molta sobrietà, come Franca Turra, basta leggere la relazione che abbiamo lasciato sulle sedie, è un esempio di sobrietà, concretezza, ma poi dice delle cose importantissime e sconvolgenti, e tra l'altro cita tutti i nomi che hanno fatto e sono ricordati come la storia della resistenza di questa città. A noi sembrava giusto, visto che cade proprio oggi il centenario, tenete conto che la scelta con Valeria è stata puramente casuale. Lei mi ha detto: c'è un lunedì libero. Abbiamo guardato, era il centenario di Franca Turra, si vede che era destino, ed è stato un bel destino da un certo punto di vista, perché questa combinazione ci ha consentito di fare questa cosa. Però noi, il nostro tentativo è quello di togliere un po', abbiamo giustamente definito un'iniziativa antiretorica, un po' di polvere, un po' di retorica, ma non per in qualche modo, come si dice oggi, in maniera pesante da parte di tutti i revisionisti, smitizzare il merito della resistenza, programmare quello che si chiama con un neologismo orrendo la antifascismo, cioè liberarsi di tutto. No, esattamente per il contrario. siccome anche oggi i valori di coloro che semplicemente hanno rischiato la pelle in tanti modi diversi, anche con una resistenza civile, facendo in modo che intorno al lager ci fosse una rete di resistenza, una rete non solo di aiuto, ma anche una rete che segnalava tutta la resistenza italiana, chi c'era, chi non c'era, chi passava, chi era sopravvissuto, chi era vivo, chi si poteva liberare. Tutte cose fatte con l'appoggio di tante persone semplici. Pensate a tutti i dirigenti della zona industriale che alzavano gli organici delle fabbriche affinché molte persone potessero sfuggire al reclutamento obbligatorio. Sono tutte forme di resistenza attiva, concreta. Ebbene, tutte queste forme di resistenza oggi tornano attuali perché quegli stessi valori sono messi in pericolo in modo diverso. Non siamo di fronte alle stesse situazioni, ma noi oggi ci troviamo di fronte al problema di ridare attualità e al problema di rendere quotidiano, popolare, diffuso gli stessi valori. È per questo che ha senso fare serate come questa. Prima di presentarvi e dare la parola all'ordine che ci siamo prefissi di questa serata e diversi ospiti, un saluto da parte del Comune di Bolzano. Oggi il sindaco ha ricevuto la nipote e la pronipote di Franca Turra in comune, riconoscendo il valore di questa cosa, e l'assessora Maria Laura Lorenzini rappresenta stasera il comune. Grazie. Grazie mille, grazie Guido, grazie a voi, grazie a tutti. Io volevo ringraziarvi per questo, per quanto state facendo, proprio perché è importante non ricordarsi ma attivarsi e stare sempre attivi e resistenti, perché siamo in un periodo storico veramente complesso dove i deboli sono visti come le persone cattive, che mentre viceversa non viene analizzato il perché sono deboli, perché sono poveri, perché sono migranti, e quindi dobbiamo tutti noi essere resistenti. Io vengo appena adesso da un cantiere e io sono architetto prima che assessora, e nel cantiere viene costruita la casa, se viene costruita bene si deve sempre partire dalle fondamenta. E queste persone, queste donne veramente coraggiose, assieme anche tanti altri uomini ovviamente, però in questo caso parliamo delle donne, hanno costruito, hanno gettato le basi per avere una società più giusta e più equa, e noi dobbiamo resistere e mantenerla, perché mantenere la democrazia in questo periodo non è cosa semplice. E quindi mi piace questa manifestazione e grazie, vi ascolto molto volentieri, grazie. E porto un saluto, scusami, mi dimenticavo la cosa principale, un saluto dal sindaco e da tutta la giunta, perché il sindaco mi ha proprio anche, io venivo comunque, ma mi ha delegato, mi ha detto porta un saluto veramente a tutti voi che siete qui in ricordo di queste donne resistenti, veramente. Qua abbiamo anche un esempio più bello. Volevo anche ricordare che noi facciamo questo fine settimana, abbiamo dedicato tutte le iniziative come ampie, e lo dedichiamo anche questa. So che ad alcuni non è piaciuta questa scelta, ma noi lo rivendichiamo con orgoglio. Abbiamo dedicato tutte le iniziative, dalla commemorazione di Giacomo Matteotti che si è svolta sabato ad adesso, alla memoria di Soumaila Sacco, il sindacalista ucciso in Calabria dalle mafie schieriste. Noi riteniamo che ci sia una continuità nella lotta per la legalità e la democrazia, e un ponte tra chi ha saputo lottare nel passato e chi sta lottando in condizioni difficilissime anche oggi, in ogni luogo dove sono messe in discussione le libertà e dove ci sono discriminazioni e violenze. Quindi da questo punto di vista noi lo rivendichiamo anche oggi, e chi non è d'accordo se ne farà un altro. Detto ciò, Paolo Ortelli e Sara Castellani ci portano, dobbiamo innanzitutto dire che facciamo tanti auguri alla sorella di Franca Turra, che è in questo momento ha alcuni problemi, che sta affrontando un problema di salute, che noi speriamo che si risolva brillantemente. Ha delegato loro ed è preoccupatissimo, si è preoccupatissimo che fossero qui e che potessero parlare. In realtà Sara è già venuta qui e ha parlato anche di Resistenza come musicista, perché è violoncellista dell'orchestra Giovanni Rigarda, che qui ha suonato ben due volte con un'opera proprio dedicata alla Resistenza. Do a loro la parola e poi dopo successivamente. Grazie. Siamo Sara ed io molto onorate di essere qui, rappresentiamo mia mamma, la nonna di Sara, Gabriella, e siamo qui a commemorare i 100 anni dalla nascita della nonna e bisnonna, no? Che tutti voi conoscete come la partigiana Anita. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo incontro che onora la memoria della nonna e non solo della nonna, attraverso di lei la memoria dei caduti della Resistenza e tutti coloro che hanno lottato per costruire un paese migliore e più giusto. E quindi la nonna è una tra tante persone che vogliamo un po' onorare in questa giornata. La nonna non amava i riflettori, chi la conosce bene lo sa, era una persona discreta e modesta. Quindi quello che ha fatto durante la Resistenza l'ha fatto con un senso di umanità e non per una questione di protagonismo. Quindi volevo fare questa premessa perché è importante sapere che era una persona comune, che in un momento storico particolare ha preso delle decisioni come altre persone, e quindi siamo qua ad onorare queste scelte della nonna e di molte altre persone, no? Lei non ha mai raccontato la sua esperienza nella Resistenza come un atto eroico e unico di protagonismo, assolutamente, no? Ciò che mi ha sempre trasmesso e che oggi orienta anche le mie convinzioni e quelle, per fortuna, delle generazioni future, è un profondo senso di giustizia e di umanità. Mi ha insegnato che non si può rimanere indifferenti di fronte agli abusi, anche quando non ci toccano in prima persona. È il desiderio di Gabriella, mia mamma, che io condivida con voi un breve frammento di una lettera personale, quindi non è una lettera che è stata pubblicata in nessun modo, che la nonna scrisse a mio nonno poco prima di incontrarlo. La lettera è del 14 agosto del 1945. Leggo un piccolo frammento perché è un po' significativo di quali erano i sentimenti che hanno mosso la nonna in questa sua battaglia. Metto gli occhiali perché... Dice: la nostra vita è ridiventata abbastanza calma, la bufera è passata e ci ha lasciati un po' affranti, ma ancora sempre pronti a lottare per la vita. L'8 settembre è stato per noi qui una tremenda giornata che, campassi 100 anni, non potrò mai dimenticare. Da quel momento è nato in me prepotente il desiderio di lottare contro i nazisti, contro chi ci aveva portati ad una guerra al loro fianco. Ho preso parte attivissima con tutte le mie forze al movimento patriota clandestino e ho lottato contro nazisti e fascisti repubblicani che ci perseguitavano continuamente. Molti compagni sono caduti, chi in una guerra aperta, chi nelle celle di un campo di concentramento che esisteva a Bolzano, assassinati nei modi più barbari dei soldati SS. Come rimanere insensibili a tutto questo? I compagni morivano e noi si continuava a lavorare. Ed è questa esigenza di sensibilità come segno di umanità che la nonna mi ha voluto trasmettere a me, ai nipoti, ai miei fratelli e alle mie sorelle, e che ha motivato anche il mio desiderio operante di conoscere l'essere umano nelle sue diverse forme culturali attraverso gli studi antropologici che io ho realizzato vivo in Messico. Questo è il mio modo di onorare la sua memoria e vi ringrazio di questo spazio. Buonasera a tutti Innanzitutto spero che mi perdonerete se sarò un po' colpa dall'agitazione, ma di solito sono più a mio agio a suonare in pubblico. E purtroppo non ho mai avuto modo di conoscere la bisnonna, però il suo ricordo rivive anche nei più giovani della famiglia e l'orgoglio per le sue azioni è sentito anche da miei nipoti, la cui realtà è molto lontana dalla Seconda Guerra Mondiale. Questo orgoglio è stato alimentato anche dal recente viaggio che ho compiuto a marzo ad Auschwitz I e Auschwitz-Birkenau, avendo avuto anche modo di ascoltare la testimonianza di Liliana Segre, che mi ha commosso profondamente. E sentire la morte e il dolore che aleggiano in quei luoghi rende davvero più consapevoli di ciò che la bisnonna, come tanti altri partigiani, ha compiuto e soprattutto del coraggio che ha avuto. Al ritorno dal viaggio, infatti, parlando con mia mamma, la nipote di Franca Serra, le ho confessato che non avrei mai avuto il coraggio di compiere le azioni che ha fatto lei. E mia mamma mi ha risposto: perché credi che la bisnonna fosse cosciente del coraggio che ha dimostrato? Lei faceva solamente ciò che riteneva giusto, solamente. Grazie. Non avete fatto solo rivivere un ricordo di una persona cara, ma avete dato concretezza a quei valori di cui cerchiamo di parlare stasera. Dopodiché la parola, all'interno di questa iniziativa, una delle prime cose che abbiamo discusso con la dottoressa Trevisan è stato come fare un'iniziativa che desse diversi punti di vista. E uno dei punti di vista, siccome io ho l'abitudine di stare sempre in ufficio ascoltando la radio di maggio a pranzo, è stato ascoltare Michela Zucca nelle sue trasmissioni radiofoniche su Rete Regionale sulle donne che combattono, costruite sul suo lavoro scientifico, perché ovviamente è un'antropologa, ma raccontate in una maniera che ha dato, che dava agli ascoltatori forza ai valori che quelle donne esprimevano. Ovviamente lei è partita da lontanissimo, Margherita di Trento, poi ci sono state varie altre donne che hanno segnato la storia del Tirolo, però a un certo punto ha fatto anche una serie di riferimenti e di altre, arrivando a definire anche un passaggio in cui queste donne che combattevano si intrecciavano con le donne che resistevano attraverso i valori e attraverso la capacità di resistere su cose importanti, sui valori di cui discutiamo, a partire dalla loro vita quotidiana. E quindi ho pensato che sarebbe stato un punto di vista azzeccato in una serata come questa dedicata a una persona straordinaria come Franca Serra. Michela Zucca. Io ringrazio tanto l'Alpi di Bolzano per avermi invitata qua e anche per aver seguito tutte le mie trasmissioni. Io mi occupo di storie delle donne e di storie delle donne alpine e contadine, perché le Alpi, come giustamente ricordava Guido, hanno una tradizione antichissima di rifugio per i perseguitati, nel senso che per i montanari non è così tanto importante perché fuggi. Se fuggi dallo Stato centrale, che è il nemico, se fuggi dalla città, che è il nemico, se fuggi dal potere, che è il nemico, io ti do da mangiare, da ripararti e ti mostro il cammino. E questo noi lo vediamo da tempi antichissimi. Le Alpi sono sempre state rifugio di eretici e perseguitati di tutti i tipi, e le Alpi hanno sempre resistito, dalla lotta contro l'impero romano fino alle lotte contro i vari vescovadi, principi, principotti, imperi, per non parlare della resistenza. Ora, come mai le donne, come mai la resistenza? In montagna, nei piccoli paesi di montagna, i fascisti, tanto ben visti, non lo sono mai stati. Nel senso che anche per loro, come per il potere centrale di oggi, i piccoli piccoli paesi dell'arco alpino non sono tanto convenienti per la propaganda, quattro gatti legati alle bestie che si muovono difficilmente, che non vanno alle adunate, che non gridano, che non fanno tante scene, tanti show. E nel settembre del 43 dobbiamo immaginarci qual era la situazione, perché un'altra cosa da considerare molto importante: sulle Alpi le donne sono sempre state una figura assolutamente importante, prima di tutto perché tradizionalmente gli uomini emigravano, andavano lontano per lavorare, e quindi chi governava tutto e chi reggeva le sorti della famiglia, dell'economia, del piccolo commercio che potevano fare, ma anche della formazione all'interno della famiglia e del passaggio dei valori, erano sicuramente le donne. 8 settembre 43. Sono appena scese le vacche dai monti, per cui ci sono le case d'alpeggio che sono state appena chiuse, e la gente, le donne con i bambini e i vecchi, perché gli uomini non c'erano, sono ritornate a casa. Ora, le donne sapevano perfettamente che dare rifugio a un disertore significava l'incendio della casa, l'uccisione delle bestie e anche peggio. Lo sapevano perfettamente. E che cosa è successo? L'8 settembre del 43 noi abbiamo avuto decine di migliaia di soldati senza nessuna formazione politica, che ad un certo punto, stanziate in gran parte nelle città, ricordiamocelo, perché questi non erano in montagna, hanno scelto la montagna, lasciati assolutamente senza ordini. A questo punto io credo nella memoria archetipa, quindi ad un certo punto la memoria profonda, la memoria di secoli e di millenni ti dice che cosa devi fare. Teoricamente sarebbe stato molto più facile nascondersi in una città. Praticamente, senza tante parole, ognuno sentiva dal di dentro che doveva andarsene, perché in una città sarebbe stato tradito. Doveva andarsene in un luogo in cui la gente gli avrebbe dato sostegno, riparo e anche cibo. E quindi noi abbiamo migliaia di soldati che si rivolgono, che vanno in montagna. In montagna chi c'è? Ci sono queste donne che sono abituate da sempre, diversamente dalle cittadine e dalle borghesi, a decidere senza uomini, perché lo devono fare. In quel momento loro si trovano di fronte a queste persone che fuggono, e come hanno sempre fatto nei secoli e nei millenni, non stanno tanto lì a chiedergli come, il perché e che cosa. Erano donne, diciamo, scarsamente alfabetizzate, la media dell'istruzione in arco alpino era la terza elementare, quindi queste non avevano preparazione politica, non avevano letto proprio niente, non leggevano il giornale, a stento ascoltavano la radio, perché normalmente c'era una radio per frazione quando andava bene. Ora, queste non sono lì a fare tante domande, a valutare il rischio, a chiedere consiglio. Queste, come hanno sempre fatto nel corso dei secoli e dei millenni che li hanno preceduti, prendono sta gente, se li portano in casa, gli danno da mangiare, gli fanno togliere i vestiti, le divise, e gli danno gli abiti dei propri uomini. Dopodiché gli aprono le case d'alpeggio, li portano al sicuro e gli danno da mangiare. E io vi ricordo che l'inverno del 43 è stato uno dei più tremendi, in cui la gente non mangiava, in cui c'erano requisizioni continue. Ora, queste donne cariche di figli, la media nella famiglia contadina era quantomeno di 5-6 figli a testa, senza uomini, dovendo fare tutto loro, riescono a trovare anche lo spazio, il modo e le risorse per dare da mangiare a quelli che si trovano nascosti. Non basta, queste donne massicciamente si mettono al servizio e aiutano attivamente quelli che poi diventeranno partigiani, e non solo fanno le staffette, molte senza dirlo poi dopo prendono le armi. Per cui noi abbiamo decine di migliaia di donne che effettivamente combattono e che appoggiano attivamente la resistenza. La resistenza senza le donne delle montagne non avrebbe potuto esistere. Questa è la verità cruda. Chiaramente queste donne avevano ben chiaro il fatto che combattevano non solo per cacciare fuori i nazisti, ma anche per acquistare dei diritti. C'è questo libro bellissimo di Tina Merlin, La casa sulla Martiniga, in cui lei racconta come contadina di montagna, quando si decide assieme a due fratelli, che poi morirono entrambi, di mettersi a combattere con i partigiani. Dice: noi avevamo ben chiaro il fatto che come donne non avevamo dei diritti e noi abbiamo fatto la resistenza anche per conquistarli, anche se noi non avevamo studiato, anche se noi non potevamo esprimere a parole questo desiderio. E ricordiamoci che la resistenza è stata una lotta di minoranza, perché sembra che ad un certo punto il popolo italiano si sollevi. Falso. La resistenza è stata una lotta di minoranza, è stata una lotta di popolo solamente sulle montagne, in cui la popolazione si è schierata quasi compattamente, compresa la Chiesa, con la resistenza, in montagna, non altrove. Quindi vediamo anche di collocare geograficamente quella che è una lotta di popolo. Le donne combattono per i propri diritti e che cosa succede dopo? Quello che succede dopo è che tutto torna come prima, nel senso che molte di quelle che hanno combattuto, ricordiamoci che combattere fuori, combattere con i partigiani, significava essere state fuori da sole con uomini. Questo, nella mentalità beghina dell'Italia del dopoguerra, di quello che c'è stato dopo, era un qualche cosa di difficilmente affrontabile. In realtà le donne combattenti sono molte di più di delle 70.000 che sono state, come dire, schedate, dichiarate. Molte non hanno dichiarato la propria appartenenza alla resistenza, proprio per la paura dello stigma sociale che avrebbero dovuto affrontare se avessero dichiarato. Ora, qual è l'insegnamento? Qual è il valore che ci può portare avanti? Allora, secondo me, uno dei messaggi forti riguardo alla lotta delle donne è che le conquiste, se non si continua a lottare per mantenerle, vengono vanificate. Purtroppo quello che sta succedendo adesso e che dovrebbe, secondo me, indurci a riprendere una lotta per i diritti, perché siamo in tempi veramente, veramente critici, e se noi non riprendiamo a lottare, tutto quello che noi abbiamo pensato di aver conquistato verrà semplicemente cancellato. Con questo vi ringrazio. È presidente dell'ANED, è figlio di una partigiana, ma che ha conosciuto Anita, ma l'ha conosciuta in un modo strano, nel senso che c'è una bellissima racconto che peraltro lui ha fatto anche nel suo libro, in cui a un certo punto chi era dentro incontra la famosa Anita che era fuori e che finalmente conoscono chi gestiva i patti, gestiva i messaggi, gestiva le cose. e lo fanno dopo che finalmente sono uscite dall'aria, in un momento in cui abbracciano finalmente, dopo che è finita la guerra, la resistenza, anche se poi sapete che la maggior parte delle stragi nel codice Scipio avviene, le stragi nazifasciste arriva dopo il 28, dopo il 25 aprile, dopo il 28 di aprile, quindi arriva in realtà paradossalmente la liberazione da noi arriva molto dopo. Ma a parte questo, in quella pagina c'è l'incontro tra chi dentro il lager ha saputo resistere e organizzare una rete di resistenza, nelle condizioni che sappiamo, siamo la città che si è costituita parte civile nel processo contro il boia del lager di Bolzano, quindi dovremmo sapere bene che cosa c'era dentro. Però fuori non erano soli, fuori c'era una rete di resistenza di cui Franca era un perno. Ma il motivo per cui Dario Venegoni ha pensato che fosse giusto non è solo legato alle cose bolzanine. Qualche settimana fa, in occasione di alcune delle ricorrenze che normalmente si svolgono, ha scritto un articolo sul Messie dell'Area, Triangolo Rosso, in cui ha ricordato che c'è una strana deformazione nelle cerimonie, che adesso io lo riassumo, lo cito perché sarà lui a dire le cose. Per cui noi facciamo il 27 di gennaio, facciamo il 25 aprile, ci mettiamo tutte le varie cose, ma sembra un po' come lo stesso film, il bene e il male. Poi c'è la Shoah, ci sono le deportazioni, la comunità ebraica, e ci dimentichiamo che la prima cosa che fa il fascismo e anche il nazismo è sopprimere ogni libertà e ogni opposizione politica e mandare in carcere e nei lager gli oppositori politici, sopprimendo la libertà di critica, la libertà di opposizione. E che quindi quello che si sviluppa con la resistenza al nazifascismo è un discorso largo, unitario, di persone che la pensano diversamente, ma si sono accorte che la libertà e la democrazia sono aria e ossigeno comune. Ecco, anche noi volevamo recuperare una dimensione vera di quello che è il discorso sull'attualità dell'antifascismo, sui valori della Costituzione. Ed è per questo che è importante che lui sia qui. Grazie. Buonasera a tutti, io mi scuso di essere uomo in questa giornata, ma ho chiesto a mia sorella se veniva, mia figlia. Vabbè, avrei già molte cose da dire, gli spunti degli interventi che mi hanno preceduto sono già molti, cerco di attenermi anche per una questione di tempo, quindi rispetto vostro alle cose che mi è stato affidato di dire. E io però questo credo che sia in qualche modo doveroso, non voglio rubare il mestiere alle dotte antropologhe presenti, ma bisogna vedere il contesto in cui si muovevano, del momento in cui parliamo. Stiamo parlando in particolare di un gruppo di donne, in quel momento della storia d'Italia, venivano da 20 anni di dittatura fascista, e il fascismo alle donne assegnava un ruolo assolutamente limitato, che era quello di fare tanti figli per l'esercito del Duce per conquistare l'impero. Cioè era fondamentalmente il ruolo che il regime affidava alle donne. Bisognava fare tanti figli, c'erano i premi per chi ne faceva tanti, e però contemporaneamente alle donne erano esplicitamente vietati una serie di carriere, e anche quando non era esplicitamente vietato, molte carriere erano di fatto limitate. Io vi ho portato questa foto che era di un album di famiglia, Se voi guardate molto bene, voi vedete qua in basso a destra una ragazza, è mia mamma, unica donna in questo salone di Barboni, in una riunione di radiologi. La medicina, come insegnava, diciamo, la storia di Maria Montessori, che è stata una delle primi, non era una carriera adatta alle ragazze. Mia mamma voleva studiare chirurgia, se fosse riuscita sarebbe stata in assoluto la prima donna chirurgo italiana. Non era scritto da nessuna parte che non poteva, però di fatto non si faceva. Questo era il contesto. Al massimo ti lasciavano un compito di cella della patria, di angelo dell'infanzia, dovevi raccogliere l'oro per la patria, dare le vere. Questo era il contesto. E anche, lasciatemelo dire, la Chiesa cattolica di quegli anni era una Chiesa che oggi, col ragionamenti, con la mentalità di oggi, forse potremmo definire senza troppi scrupoli oscurantista, che lasciava veramente pochi margini di iniziativa alle donne. In questo contesto le donne entrano nella resistenza, in questo contesto vengono fuori da quella storia. Io ho portato questa foto perché mi piace dire qui, c'è anche Leonardo Visco Gilardi, che è il figlio di Ferdinando Visco Gilardi, che è qui in sala. Questa è la mamma di Leonardo a Bolzano, affacciata alla casa di famiglia. Questi sono i genitori di Leonardo, Ferdinando Visco Gilardi, che aveva come nome di battaglia Giacomo, e sua moglie che aveva come nome di battaglia Marcella, con i loro 5 bambini piccoli, come vedete, affacciata a quella stessa casa negli anni della guerra. Cioè, quando noi pensiamo a questa coppia che si impegna nella resistenza, dobbiamo pensare a questa coppia di questa foto, che ha questi 5 bambini piccoli, e che nonostante questo carico familiare, questa responsabilità, si butta nella resistenza. Nel campo entrano molte donne, noi ne abbiamo contate circa 700, che conosciamo con nome e cognome, quindi è un numero sicuramente per difetto. Questa è mia mamma in una fotografia che viene dalla famiglia Visco Gilardi, e è mia mamma con la tuta del campo di Bolzano, un triangolo rosso da prigioniera politica, e la sua matricola. Quando è stata scattata questa foto non ne ho la minima idea, però diciamo è quella che più qualifica la mamma ad Agufulini come deportata politica. Nel campo, come un po' accennato, ma mi piace ricordarlo meglio, lei ha conosciuto, lei che era una trentenne socialista, ha conosciuto un quarantenne comunista che era mio padre, che si chiamava Carlo Benigoni, e col quale ha avviato un'attività politica molto intensa, parlavano molto di politica, e tant'è che nel dopoguerra sono nato io. C'era questa splendida ragazza che era Nella Lilli, diventerà la moglie di Mascagni. Tutti pensavano che lei fosse già moglie, insomma, avevano messo le mani sul capo della resistenza della zona. In realtà il Mascagni che loro erano stato era il papà del Mascagni, del partigiano. Però ce n'erano tante altre. Io ho preso questa copertina di un libro che mi piace molto, di questa Osvalda Borelli, che era una medico che lavorava nel sanatorio tubercolotico di Garbagnate a Milano, e che è stata arrestata per una delazione insieme a tutto il reparto. Hanno portato qua il primario, i medici, gli infermieri, però perché? Perché dentro l'ospedale avevano creato un nucleo antifascista di resistenza. C'era Laura Conti, che qua vediamo in un ritratto che gli fece dentro il campo il 14 ottobre 1944, c'era là in fondo al disegno, con la sigla che sta sulla destra e quella di Armando Maltagliati, che era il capo campo di Bolzano prima di Fossoli. A me piace dire che in questi giorni abbiamo acquisito l'intero gruppo dei ritratti fatti da Maltagliati ai prigionieri del campo. È una importantissima acquisizione, sarà oggetto di una mostra presto che spero che possa girare. Voglio dire, vengono raccolte in questo campo donne di tutte le origini, di tutti gli orientamenti politici, culturali, religiosi, di tutte le condizioni sociali, che si trovano in un campo larghissimamente popolato da uomini, dove qualche volta, come racconta per esempio Tea Palma, ogni tanto vengono condotte nude alla doccia in mezzo al campo, e i prigionieri, come gesto di rispetto, si voltano platealmente dall'altra parte per non dare ai tedeschi la soddisfazione di essere loro a guardare le loro compagne nude. Questo lo dice Tea Palma, lo dice come un gesto che l'aveva molto colpita, perché tirata fuori dalle celle nuda e portata alle docce, pensava appunto di essere esposta in quel momento così, e quelli si sono portati dall'altra parte. La resistenza aveva insegnato qualche cosa anche nel rapporto con le donne, con queste donne che si sono affermate per quello che erano dentro il campo e prima del campo nell'attività della resistenza. Io se noto una cosa è che queste donne di cui ho fatto i nomi sono poi quelle che ritroviamo in un comitato clandestino del campo, cioè di gente che è prigioniero delle SS, che è il gruppo armato più feroce che si fosse mai visto sulla faccia della terra, prigioniero delle SS, e che invece di mettersi lì tranquillo a cercare di salvare la pelle, cercano di organizzare una resistenza. Era una gabbia di matti, era una gabbia di matti, di persone che rischiavano oltre il pensabile, e in questa gabbia di matti le donne erano la grande maggioranza. In quel momento lì loro conquistano un ruolo che non perderanno più. A me quello che colpisce nelle lettere di mia madre fuori, clandestine, è che lei non discute mai il proprio ruolo, diciamo, in quanto donna. Lei fa un ragionamento sempre, diciamo, di opportunità politica, se è giusto che lei faccia questo o quest'altro, perché se lo fa bene o se lo fa male. Non si pone mai il problema che lo debba fare una donna o lo debba fare un uomo. È una, diciamo, sostanziale parità conquistata veramente sul campo, e anche le persone che da fuori si sono date da fare per aiutare i prigionieri dentro. Aiutare voleva dire spesso mandargli un golf, una maglietta, un paio di scarpe, un pezzo di pane, una marmellata, non chissà che. Però aiutare voleva anche dire organizzare delle fughe, dare rifugio a quelli che fuggivano, provarci, e fare soprattutto circolare una rete incessante di comunicazioni tra dentro e fuori campo. Mia madre riesce a dialogare con Lelio Basso, che era il suo referente politico, che stava in clandestinità a Milano, da dentro il campo di Bolzano, lei riceve le lettere che Elio Basso gli scrive, risponde a Elio Basso, c'è qualcuno che prende queste lettere, le porta fuori, le affida a qualcuno che va a Milano c'è qualcuno che le affida a uno dei, credo, quattro in tutta Milano che sapevano dove stava la casa di Elio Basso, che viveva sotto falso nome, e viceversa, dice il giro. E siccome Elio Basso era una persona che aveva alta considerazione del proprio ruolo nel mondo, ha conservato tutte le carte che lo riguardavano, e quindi sono arrivate fino a noi queste lettere che uscivano clandestinamente a ritmo di almeno una settimana per l'arco di nove mesi, cioè un'attività incessante. Questa attività incessante è stata resa possibile dalle persone che a Bolzano in città aiutavano quelli che stavano dentro, si prendevano la responsabilità di prendere questi biglietti, di portarli, di recapitarli, di farli arrivare al comando della resistenza a Milano. A me piace insistere su questa figura perché penso che delle tante che si sono molto date da fare sia forse una delle più dimenticate. Mariuccia Caretti, che era la moglie di Luisco Girardi, la mamma di quei bambini, è la persona che ha aiutato suo marito a mettere in piedi l'organizzazione dell'assistenza, e quando suo marito è stato arrestato, Ferdinando Luisco Girardi è stato condotto nei sotterranei del corpo d'armata, torturato in modo che torturato pesantemente. Lo stesso Schiffer, in un libro che spero riuscirà a uscire presto, dirà: non c'è stato verso di cavalli niente, non c'è stato verso di cavalli niente, però per cercare di piegarlo gli hanno fatto vedere la moglie, e alla moglie hanno fatto vedere in che condizioni era il marito. I due si sono guardati e si sono capiti e non hanno detto niente, non una parola. Lei ha guardato suo marito torturato, massacrato, come se lo incontrava al mercato. Non ha detto beh, e lui non ha detto beh, avendo visto la moglie che l'aveva visto, sapendo che sua moglie aveva visto in che modo l'aveva. Erano persone di una forza interiore fuori dal normale, e Mariuccia è stata quella che ha consentito a Francatura di prendere le fila della resistenza e di diventarne la responsabile quando a metà di dicembre del 1944 Ferdinando Luisco Girardi è stato arrestato. Lasciatemi fare una deviazione: anche mia mamma e Luisco Girardi non si conoscevano, anche se si erano scritti decine di biglietti clandestini. Lui scriveva a una tal Maria e lei rispondeva a un tal Giacomo, non si erano mai visti in faccia. A un certo punto, quando lui è stato arrestato, è stato torturato, è stato portato nel campo di Bolzano, è finito in infermeria perché era veramente malconcio. E quindi mia mamma, che lavorava in infermeria, si è trovato questo prigioniero massacrato, soprattutto alle natiche, alla schiena. E quindi questo supino, considera all'aria mentre quella lo medicava, quando lui ha visto che non c'era nessuno, ha detto: ma tu sei Ada? Sì, io sono Giacomo. E lei ha capito che lui era l'uomo che sapeva tutto della sua attività, e che se lui, così conciato, avesse parlato, la sua vita di Ada era finita, perché era quella che teneva i rapporti con lui. E lui ha capito questo momento e ha detto subito: non ho parlato. E lei, per dire com'erano queste donne, scrive a Elio Basso poco dopo di questo, che è uno dei momenti più drammatici della sua esistenza, con questo tono, dicendo: capirai che momento è stato quando ho visto lui, eccetera, e quanto, se tutto andrà bene, un giorno forse ci rideremo sopra, dice, perché io di Giacomo ho conosciuto prima il sedere che la faccia. Se tu sei una che sa scherzare su un momento così, vuol dire che hai, diciamo, uno spessore, una corazza veramente forte. E queste donne hanno dimostrato di avere questa corazza. E erano anche loro donne molto diverse. C'erano le mogli dei deportati, come Gemma Bartellini, che ha fatto avanti e indietro, era la moglie di un partigiano, di un dirigente socialista molto importante, che poi è stato ucciso in Germania e che ha fatto avanti e indietro tra Milano e Bolzano molte volte portando quei biglietti. E c'era Francaturra, anche lei, insomma, va detto, lei aveva il marito prigioniero degli inglesi dal 1941, era da sola con la bambina, con Gabriella, e si trovava in una contraddizione drammatica tra il marito preso dagli alleati e lei che lavorava con gli alleati. E quella lettera è la lettera in cui finalmente, a cose fatte, a cose finite, senza censura, lei può per la prima volta dopo 6 anni finalmente dire al marito che hanno fatto le cose. È una lettera di una densità spaventosa. E io mi piace mandare da qua un saluto a Gabriella, perché so che solo condizioni di forza maggiore le hanno impedito anche noi di essere qua oggi. Lo sanno questo, ha tenuto dei registri di questa sua attività. Anche questa è una pura pazzia, violazione di qualunque regola di clandestinità. Ha tenuto dei registri tipo questo. Mia mamma aveva scritto a Ferdinando Visco Gilardi: mandate però una volta al mese, a settimana, qualcosa da mangiare a questa Franca Azzari, perché è incinta al 7° mese, è molto deperita e ha bisogno di mangiare. E lei registra primo pacco, secondo, terzo pacco, quarto pacco, mi ha mandato una roba al mese, a settimana, e ha tenuto il conto, e già che c'era gli ha mandato un paio di calzettoni, perché era inverno, era pieno inverno, e a Bolzano, dove pezzi di sapone, le culotte, cioè ha cercato di assistere come ha potuto sui input, su indicazioni di quelli che stavano dentro il campo, che hanno visto questa donna incinta, una partigiana milanese, che già non lo sapeva, era già vedova del suo marito deportato in Germania, e quindi il bambino che lei ha partorito poi è nato già orfano, prima ancora di cominciare la vita. L'ultima cosa che voglio dire è questa, cioè queste donne che hanno fatto questa attività e che erano la grande maggioranza, sia dentro il campo che fuori il campo, di quelli che facevano questa attività di resistenza, hanno dovuto combattere contro i pregiudizi di tanti dei loro compagni. Questa rapporto di Renato Serra, che con nome di battaglia di Nigra è stato qua a Bolzano diversi mesi, mandato dal Comitato di Liberazione Nazionale d'Italia a Bolzano a vedere cosa si poteva fare per aiutare i prigionieri del campo. Lui torna indietro dopo aver studiato bene, da bravo militare che era, e scrive questo rapporto, in cui a un certo punto, al terzo punto, se non mi ricordo male, scrive questo come ho scritto: esclusione dalle donne dal comitato centrale con funzioni direttive, servizi delle donne con compiti di sottordine esclusivamente. Questa era la logica con la quale un pezzo della resistenza, degli uomini della resistenza, si muovevano rispetto alle loro compagne. Per fortuna nessuno gli ha dato retta e le cose sono andate avanti, e le donne, in grande maggioranza le donne, hanno tenuto in piedi questa organizzazione. Quindi quando poi la guerra è finita e alle donne è stato dato il diritto di voto e hanno partecipato alla sostituente, eccetera eccetera, non era un regalo che gli è stato fatto, è proprio veramente un diritto che queste donne, queste resistenti, avevano conquistato dando prova di essere all'altezza. Grazie. Lidia mi dà pace, mi risparmio la presentazione perché si presenta da sola e ci mancherebbe altro. Quello che voglio dire in aggiunta alle cose che avete sentito è questo: proprio in questa sala qualche tempo fa si è svolta un'iniziativa più o meno come questa, in cui è stato presentato il libro di Sabine Meyer e Joachim, suo marito, dedicato alla repressione della comunità ebraica di Milano. E proprio in questa sala, dopo diciamo un po' di tempo, Landeshauptmann Arno Kumpacher ha ufficialmente dichiarato che era ora di chiedere scusa a coloro che erano stati mandati nei campi di concentramento dai vicini di casa. Io credo che nella descrizione che abbiamo sentito ci sia molto di quello che è passato nel campo di concentramento di Bolzano, che pur essendo un campo di transito era denso di storie, e tra queste storie, lo dico perché è un nostro prossimo impegno, oltre a rendere giustizia, memoria, come giusto che sia, alle esperienze che sono state qui descritte, ci sarà quella di allargare, c'è stata un'altra iniziativa in una sala vicina a questa, la biblioteca civica, una serie di famiglie che sono finite nel campo di concentramento perché i locali avevano disertato. Noi ricordiamo spesso il sacrificio dei disertori, soprattutto su Tirolese, ma ci dimentichiamo spesso che l'altra faccia del sacrificio è stato che da quel campo, magari a rotazione, passavano intere famiglie, di cui spesso e volentieri si ignorano ancora oggi, nonostante il lavoro di Dario, il lavoro degli storici tranquilli come Tomazzoni, il lavoro degli storici di Fossoli, si ignorano i nomi perché erano in altri registri. Ecco, io credo che uno degli impegni che ci assumeremo, oltre come abbiamo fatto stasera a descrivere una ipotesi di lavoro per l'amministrazione per ricordare tutto questo, sia aprire anche questa finestra, perché è giusto che Josef Mayrbus sia beato e che proprio oggi sia stato avviato e sarà completato nei prossimi giorni il gemellaggio tra il comune di Bolzano ed Erlangen, così come il centro pace, l'Anche e tanti altri avevano voluto. Ma è giusto che anche su queste persone finalmente sia tolto l'oblio e meritino il riconoscimento che hanno fatto, la resistenza l'hanno fatta anche loro. Grazie. Adesso Lidia ben abbraccio. Grazie di cuore per avermi invitato qui, sono molto contento di esserci, veramente tanto. E buonasera a tutti e tutti, sempre tutte e tutti, sempre prima tutte e poi tutti, sempre questo, buonasera a tutti, punto e basta. Ecco appunto, io stavo per correggere perché essendo una bellissima profe, naturalmente ho la matita rossa blu incorporata per formazione internazionale, quindi mi viene la correggere, ma mi sono stato a fatica, aspettarmi beccarti praticamente. Le ho conosciute tutte e l'iniziativa di questa sera a me pare particolarissimamente importante per il fatto che è un tassello di una possibile vera storiografia della resistenza che ancora non esiste. Per scrivere della resistenza sono stati usati tutti i cliché della storiografia esistente, quindi c'è uno che comanda, gli uomini che sacrificano, le donne che stanno a casa a cucire e a tessere, insomma la guerra viene raccontata, la storiografia viene raccontata dalla storiografia soprattutto come il principale gioco di cui gli uomini si appassionano, e quindi questo li fa i signori della storia. Per trovare che se non c'erano state le donne non c'era neanche una seconda generazione di uomini, naturalmente bisogna andare a scavare, sempre incredibile, pure bisogna andare a scavare, tanto è forte questa non dico egemonia perché non è vera, ma questo dominio maschile sull'esistente e anche sul passato. Iniziative come questa mettono giù tanti tasselli attraverso i quali si può capire, si potrà capire che la resistenza certamente non fu quella cosa eroica e tradizionale, bellica, eccetera, eccetera, che ci viene profilata ancora oggi, o addirittura che viene cancellata, perché quando poi si comincia a osservare la storiografia criticamente, la cosa più facile, la cosa più semplice che viene in mente, ci cancelliamo tanto le storie sbagliate. Qui c'è qualcosa di più. Quella storia non è sbagliata, dunque cerchiamo come fu la storia giusta, la storia vera. Per esempio, io sono così vecchio, sono nato poco dopo la fine delle guerre puniche, che ho memoria di eventi oramai storici, per esempio che il 10 giugno del 40 noi dichiariamo guerra. Ogni tanto quando io dico, quella volta che abbiamo dichiarato guerra alla Francia, all'Inghilterra, agli Stati Uniti e all'Unione Sovietica, dicono, ma cos'è che abbiamo fatto una scemata simile? Perché l'abbiamo fatta invece? L'abbiamo proprio fatta perché Mussolini, alleato di Hitler, aveva paura di non arrivare a tempo a sedersi al tavolo della pace per prendere, temendo che il blitzkrieg finisse troppo presto, vado a entrare. E mi ricordo che quel gesto, in una frase che lo preparò, fece cadere repentinamente la sua popolarità a zero, perché Mussolini era molto popolare in Italia. Andavano le tette a metà di strada, c'erano noi bambini in colonia, traviava il grano, faceva tante di robe. Veramente poi anche qualcuno dei primi che si preoccupasse di rendere pubblica anche i mezzi di comunicazione sociale, sia lui che Hitler aveva in particolare un'attenzione sui mezzi di comunicazione sociale, no, anche Mussolini non stava indietro. Player, la radio, furono usate per appunto politicamente con grande peccato, però tutta la popolarità che Mussolini si era conquistato cadde quella volta che lui disse devo entrare in guerra, ho bisogno per alcune migliaia di morti per potermi sedere al tavolo della trattativa di pace con qualcosa da dire. Per cui praticamente i danni sono, allora noi vi sediamo soltanto per poter sedere al tavolo della pace. Repentinamente un'ondata di antifascismo, e questa parola secondo me non è giusta. La mia famiglia non è stata mai fedele al regime, ma mai avrebbero detto siamo antifascisti. Anche questa espressione è un'espressione corta e più che altro scolastico-dottrinale, non è una parola corta nel senso che è elegante, è una parola che appartiene a chi ha fatto certi studi, che è un segno sociale, non un segno culturale, evidentemente. Allora, per esempio, mia mamma Mussolino chiamava Cullà, quello là. Io sono piemontese di nascita, in Piemonte rispetto all'autorità considerevo il pezzo della cultura anche popolare. Se tu il presidente del consiglio lo chiami Cullà, vuol dire che lo consideri una schina. In più legge Cullà per parlo da Fuggero, quella che parla da Tarcone, il nostro dialetto non è particolarmente musicale, diciamo. Cullà per parlo da Fuggero, perché da noi chi apre la finestra, arriva la folla, viene detto matto clinico. E quindi quando lei dice di Mussolini pullare a parlare più gente, quel tipo là che per diretta nota ha anche il potere e persino così matto che parla da Falcone. Dico questo perché a me i ricordi anche della resistenza vengono in mente in questa forma e ci tengo e vorrei che riuscissimo anche a riscrivere, perché non è stata mai scritta ancora, una storia meno falsa, più fatta di pezzi di verità, tanto che tanti pezzetti di verità forse consentiranno di leggere una sequela di vicende meno eroiche. L'eroismo noi lo buttiamo una roba fascista veramente. Offrire il petto al più buon amico, questi scemi. Se scappi sei ancora buono per un'altra volta, se non c'entra. Quindi questa idea che buttare, che offrire il petto al più buon amico fosse un'operazione gloriosa, sembrava appunto una cosa, avremmo detto poi fascista, filo fascista. e quindi non pensavamo a questo, non eravamo nemmeno tanto patriottici, devo dire, perché durante il fascismo la patria era stata così continuamente esaltata, e l'Italia qui, l'Italia là, l'Italia di mezzo, non sono più bravi, sono più, e uno usciva da orecchie, non poteva più. Veramente l'unica cosa di cui sentiamo fortissimamente l'esigenza era la libertà, questo sì, se devo dire il sentimento che ci univa quando per esempio incontravamo anche clandestinamente, anche solo con cenni, così, era finalmente si poteva respirare. Anche la libertà non era il senso che poi si vanno le grandi sfilate dicendo che era libertà. Insomma, avresti potuto campare, respirare senza rendere conto dei sospiri, dei pensieri, insomma, essere liberi, questo era il nostro grande ideale. In conseguenza di questo abbiamo fatto anche delle cose pericolose, rischiose, ma io ricordo, la resistenza soprattutto di paura e boia, altro che no. Mi ricordo una volta dovevo andare a portare un messaggio vicino ad Arona, nel caso di un parroco, la cui sorella era sospetta. Dovevo prendere il treno, arrivare fino ad Arona e poi andare. Se fosse stata fermata, avevo una copertura, si chiama copertura nel linguaggio dei servizi segreti, mica avevo niente. Nel linguaggio dei servizi segreti si chiama copertura una storietta che tu impari a raccontare nel caso ti becchino, tu non devi dire che sei per davvero. Però la mia copertura era che mi ero addormentata in treno, ero una studente milanese che sull'alto sul Lago Maggiore si era addormentata in treno, scendeva cercando di andare a prendere il parroco, perché da 20 minuti dopo l'arrivo dell'ultimo treno si riprendevano, vuol dire che avevano il coperchio, potevano anche lucidarsi. Quindi io avevo tutti questi vincoli. Scendo ad Arona, era un inverno gelido, faceva molto molto freddo, era nevicato anche intorno al lago. Dalla stazione c'era una piccola salita, io comincio, mi ricordo, crac, crac, gli scarponi perché c'era la neve, c'era un muro. E guardavo là in cima dove dovevo svoltare e non riuscivo mai a capire se lì c'era qualcuno, perché dovevo farmi sentire per poter dire appunto la storiella che era una studentessa che c'era in terra. Invece andando su dalla svolta vedo due mitra che sbucano. Allora qui è peggio ancora di quello che pensavo, vado ancora più lentamente cercando di fare ancora più baccano, cra, cra, cra, cra, e a un certo momento mi accorgo che i due mitra sono le stanghe di un carretto. Allora naturalmente sì che mi viene il coraggio e vado via di corsa, arrivo fino a là dove devo portare il messaggio e racconto questa storia. Credono tutti da ridere dicendo ma come si fa a confondere due mitra, le stanghe di un carretto con due mitra? Con la paura si può. È vero che la paura di vedere anche quello che non c'è. Ed è vero che il coraggio è semplicemente la capacità di vincere la paura. Chiunque dice io non ho mai paura, non è coraggioso, è temerario. E essere temerario è pericolosissimo, perché metti qui sono come senza ne sapere, senza neanche sapere perché. Vabbè. Questo comunque è uno dei miei atti eroici, che arrivo fino lì e gli racconto quello che devo raccontare. Ma un'altra volta invece, io non ho fatto la resistenza qui a Bolzano, a Bolzano nel 1952, io la resistenza l'ho fatta vicino a casa mia, sono varese, e quindi Val Sesia e Val d'Ossola sul Lago Maggiore, zone molto importanti per la resistenza. La Sesia aveva il nostro tecnico come comandante, più importante tra tutti i comandanti partigiani. In Val d'Ossola c'è stata anche una Repubblica partigiana che ci tenne a servirci Repubblica. Nominarono una giunta di governo, non un comitato, e della giunta di governo c'era parte anche Gisella Floranini, una donna, quando le donne non avevano ancora neanche il diritto di voto. Lei fu ministra della Repubblica dell'Ossola ed era una donna straordinaria, veramente, un milanese, ottima pianista, e lì fu poi preziosissima quando disfatta la Repubblica dell'Ossola da un terribile assalto, lei accompagnò in Svizzera per la Svizzera per volontiere tutti i bambini e le bambine delle famiglie che dovevano essere, che erano state arrestate, insomma. E mi ricordo che avevo sentito raccontare che fatto finito questo avanti e indietro per sentire i contrabbandieri e consegnato l'ultimo bambino, l'ultimo, mi ha accorto che aveva più cuore negli scarponi, altro atto di coraggio. Ma come vedete, non sono quegli atti di coraggio che si raccontano poi nei libri di storia, nei libri di storia sono sempre quelli che fanno bruciare il manto, persone che fanno sempre delle cose straordinarie. La resistenza ha questo di straordinario, che è fatta tutta di gesti coraggiosi, sì, ma coraggiosi in questo senso, di atteggiamenti che ti consentono di vincere la paura, e per questo fai anche più di quello che magari pensavo che saresti stata capace di fare. Io ho raccontato questo, io non posso raccontare una volta che scendevo, voglio raccontare il fatto che gli uomini erano però come oggi un po' peggio, nel senso che io scendevo, quando scendevo dalla montagna, venivo spesso accompagnato fino a dove era la zona partigiana da un comandante partigiano milanese, che poi era stato anche ministro, insomma, un tipo importante, che un pochino mi faceva il filo, come si dice, insomma, e mi accompagnava fino lì dove c'era la zona partigiana, poi mi salutava. Un giorno mi saluta dicendomi: ma cosa dice tuo papà che sei sempre in giro da sola in bicicletta anche la notte, tu che sei una brava ragazza? E io ero andato in albergo, naturalmente, una radio, sempre una brava ragazza, prima di tutto che diritto ha lui di pretendere che sia, non sia una brava ragazza, e poi perché vuole pagare in giro in bicicletta da sola la notte. Insomma, gli ho detto puntualmente: mio papà è in campo di concentramento, basta, anche per una cattiva ragazza, sono per una brava ragazza, sono andata via rabbiosissima domandandomi, però a lui, un ragazzino che faceva la saffetta, nessuno dice mai: e chiesto alla mamma che mi dia la maglietta perché in montagna fa freddo. No, lui può fare quello che vuole, io devo dare un giudicatore perché sono in giro in bicicletta da solo la notte, intollerabile, assolutamente intollerabile. Io, senza dire, senza dare la parola che invece mi fate non usare, allora sono diventata femminista, e dire che ero vissuto in una famiglia dove c'era grandissima uguaglianza tra le due sorelle e il fratello, perché i miei erano da questo punto di vista molto avanzati, dovevamo fare tutti quanti le stesse cose, anche lavare i piatti, anche mio fratello, anche tenere in ordine la stanza per andare a scuola, eccetera eccetera, e mai avrei potuto rifiutarsi dicendo: questi non sono lavori da uomo, non sono mai parlato di lavori da donna, di lavori da uomo a casa mia. Per i miei erano valdiviani ed erano un po' particolari. In Piemonte noi, l'unica roba di Savoia che ci piacevano i savoiardi, perché per tutto il resto io adesso avevo sentito delle cose terribili. Per esempio, tornavo da scuola e la nonna mi diceva: cosa insegnava la maestra oggi? La volta che io ho detto Vittorio Emanuele II, padre della patria, mio nonno, molto padre della patria, metteva incinta tutte le ragazze che incontrava, perché io non mi sono fatto un'opinione non particolarmente godevole di Vittorio Emanuele II. Mio nonno materno era macchinista delle ferrovie e era un uomo molto avanzato politicamente, suo figlio lo chiamò in Italia, la prima e la seconda amica, la moglie di Ribalta, quindi non una camera, però morì in servizio perché il macchinista preso per prendeva la polmonite perché ci vedeva le macchine aperte, e quindi morì, e mia mamma rimase orfana di padre quando aveva 3 anni. Fu arrivata dalla nonna e dallo zio, che era il fratello di mio nonno, era anche lui un ferroviere, però personale viaggiante e anarcosindacalista. Tutti e due i miei congiunti, che io non ho conosciuto ovviamente, erano molto orgogliosi del fatto che erano ferrovieri, perché i ferrovieri erano una categoria molto sindacalizzata, politicizzata già da subito. Io ho una foto di questo mio nonno macchinista, che diceva: noi siamo l'aristocrazia operaia, e poi ci aveva preso al fatto che si è fatto fare un ritratto dove si vede ben pettinato, giacca e cravatta, seduto a un tavolino con una matita in mano, e lui sapeva leggere e scrivere. Questo caratterizzava i ferrovieri, perché si può essere muratore anche essendo analfabeta, ma non si può essere ferroviere essendo analfabeta, per vedere gli orari, le stazioni, eccetera eccetera. Scusate questo girovagare della parola. La cultura da cui poi è nata anche la mia partecipazione alla resistenza si è formata così, in una famiglia di cui tutti contano mio padre, che avrebbe tanto voluto studiare, perché io era una famiglia contadina povera, ha voluto fare soltanto il geometra, era una, per tutta la vita avremmo voluto poter fare l'ingegneria. Quando io ho mostrato un certo interesse per gli studi, avrei fatto carte facile perché io potessi studiare. E io, siccome sentivo questa, ho cominciato dalla lezione di latino quando facevo parte di un'altra, e era certo una noia mortale. Ho odiato le lezioni, le ripetizioni terribilmente, perché è uno dei mestieri più faticosi, allora era anche mal pagato, ma insomma serviva a me per comprare i libri, per poter andare. Tutto questo culmina poi a un certo momento per il fatto che io sto attenta a cosa dicono le persone. Per esempio, al liceo classico di Milano, che si chiamava ovviamente Carlo Alberto, come una gestione del liceo classico di Milano, Carlo Alberto di Anticato, allora il liceo classico Carlo Alberto di Novara, c'era un professore di latino e greco bravissimo, straordinario, si chiamava Muzio e Raulio Alessandro, non Alessandro del Dito, Alessandro della Paglia, che non c'era. E lui faceva delle lezioni straordinarie, che avevamo senza capo. Un giorno lui c'aveva questa caratteristica: il lunedì mattina alla prima ora tutti i professori in qualunque classe dovevano commentare tutti i comunicati del governo, era obbligatorio come si faceva. Lui si dimenticava sempre, insomma era un opinionista che non si dimenticava mai di niente. Quando abbiamo visto che alla fine della prima ora del lunedì mi diceva: oh, mi sono dimenticato di pensateci voi, vedete, evidentemente lo può fare. E allora cominciamo a informarci intorno, che non nessuno sa niente, era uno che veniva da fuori, in Novara, una città molto provinciale, fuori di Novara non si conosceva nessuno, chi sapeva cosa aspettare. Insomma, cominciamo a pensare che lui fosse non è d'accordo, chiediamo al professore di filosofia, perché un giorno lui invece di fare lezioni, come diceva sempre, su Safo, su Sorceo, la storiografia greca antica, fa una lezione su Ermobio e Aristogitone, i due tirannici di Atene. Mi ricordo ancora adesso i due tirannici di Atene, perché saranno in mezzo, diciamo, non c'entra niente. Lezione ispiratista. Chiediamo al professore di filosofia, che era un vecchio, a noi sembrava vecchio, un lontanaro di Pedale Monferrato, un Monferrino. E lui dice: ah sì, è un'idea di Aristotele, accettata da San Tommaso, che siccome il tiranno uccide il popolo ha diritto di uccidere il tiranno. E così abbiamo scoperto un'altra piccola fonte per sapere delle cose che non si studiano a scuola. Quel po' di storiografia, non perché adesso direi antifascista, in questo modo ci arrivava. Una volta che io tornavo giù dalla Val d'Ossola, e mi smetto subito, io sono una chiacchierona assolutamente impenitente, ma quando mi date segnali in modo che state a fermarmi, tornavo giù dalla Val d'Ossola, ci sono naturalmente dei tornanti, poi c'è una sorte, poi un lungo rettifilo in fondo, vedo che c'è un posto di blocco. Porco mondo, di cosa faccio adesso? Non posso voltarmi a scappare perché mi sparano nella schiena, quindi devo andare lì a raccontare, appunto, perché non mi fanno la copertura, e quindi cerco di dare più vento che posso, ricordandomi però che nel cestino della bicicletta ho sotto la Stella Alpina, che era un giornale clandestino che pubblicavano sulla Lago Maggiore. Con sopra un pollo che avevo comprato al mercato nero dal contadino, perché aveva un po' vivere, quindi intanto andavo a dire che faceva la resistenza. Mi ricordavo anche che poi a casa dovevo pur contribuire ad andare in famiglia. E poi sopra avevo le tusculane di Cicerone, quindi vado di corsa, lì dove c'è il posto di blocco, e dico al poliziotto: ecco, mi lascio andare, perché da qua bisogna venire come poco, mi sa mia mamma come è visitata, aveva telefonato a mia zia, eccetera, io ero andato al paese più vicino, dico il nome, perché sto preparando l'esame di latino, il biennale di latino, in medicina, anatomia, un esame assolutamente memorico, la sala caricata di libri, eccetera, e lì faccio vedere questo tusculano. Lui guarda, il poliziotto guarda, il latino vesto un legito, anche il greco vesto un legito, e dice: ma va fuori, va a ferra di male. E così Cicerone, che non è molto odiato, ne sapeva di più. la resistenza, qui che siamo, la resistenza ha bisogno di tante storie che magari sono state raccontate questa sera da tutti noi, da, potrebbero essere raccontate da altri, eccetera. Però brigatevi un po' a raccogliere queste cose, perché io è vero che sono l'idea resistente, anche l'idea resistente, continuo a resistere per quanto mi è possibile. Sono molto affezionata, mi piace molto la vita, ma sono stata ammirata di fare il mondo, quindi però anch'io non posso permettermi che sarò sempre qui a raccontare queste storie. Tenete conto anche del fatto che per dare il via a una storiografia della resistenza finalmente fatta di cose vere è così importante da modificare la stessa idea di storiografia, non solo per la resistenza ma in generale, così che si comincia a chiedere ma perché mai, quando ci insegnano la storia nessuno mai si dice come mangiavano i contadini egiziani intanto che costruivano le piramidi, perché se i contadini non avessero preparato da mangiare non facevano neanche le piramidi, e soprattutto se non avessero avuto gli schiavi le piramidi non le facevano sicuro. Gli antichi hanno fatto delle straordinarie opere pubbliche, compreso il Colosseo, perché avevano gli schiavi e il lavoro non costava niente. Quindi è una gloria che l'abbiamo fatta, cioè, almeno ricordiamoci che è una gloria che va in parte certamente dispari all'imperatore che ordinava di fare il Colosseo e a quei poveracci che l'hanno fatto bruciandoci anche la vita sicuramente. Tutto questo ci darebbe finalmente nella storia umana un'idea meno povera e unilaterale. Finalmente si capirebbe anche che quando io chiedo che si dica sempre le donne, gli uomini, le... No, non lo faccio per un diritto, perché è vero, le donne sono di più. Quindi abbiamo diritto di essere nominato per prima. E per avere questo diritto basta fare una piccola modifica in una regola grammaticale. Eppure questa regola grammaticale è più intangibile di qualsiasi dogma. La regola, come sapete, è la seguente: in italiano nel concordante prevale il maschile. Si parla un verbo democratico, prevale il maschile. Ma i grammatici che nel XV secolo stabilirono questa regola erano così convinti di quello che dicevano che la regola intera sarebbe in italiano nel concordante prevale il maschile come genere più nobile, sicché se io accettassi che voi diciate sempre buonasera a tutti e non chiedete di dire anche tutte, ammetterei di essere un genere un po' nobile. Potete morire di questa voglia. È stato ricordato che c'è la Napolesco di Nati, ma volevo ricordare che con noi è voluto esserci anche la famiglia di Mario Rocco. E a me piacerebbe se a conclusione, dopo tutto quello che abbiamo detto, un'altra donna venisse qui e ci salutasse, visto che ci ha fatto l'onore di questa presenza che non era prevista, ma invece il suo intervento è doloroso. Risultare un attimo, perché io ho il libro di Luce di Fessa, tutto sommato, perché non ho fatto niente, ero piccolissima e sono cresciuta con questo ricordo e basta, ci ha portato tanto onore di poter raccontare, ci hanno dato tante riconoscenza a tutte le persone che tuttora io vedo e ci ammirano tutti, ma io mi sento veramente di sviluppare qualcosa che non ho, perché non ho fatto niente per avere tutto questo. E ho cercato di crescere e di allevare poi i miei figli con l'onore del nome, tutto lì, non hanno fatto proprio nulla. Perciò io ringrazio tutti di questo. Certamente tutte queste persone, compresa la Franca, ci hanno aiutato moltissimo. Io dico, quando penso alla Franca penso alla torta di mele e ai golfini di lana, perché ero mio piccolissima, le prime cose che ricordo di Bolzano è questo. Cioè andare in casa sua a sentire questo profumo ed essere accolta da questo abbraccio di questa donna che ha davvero cominciato a dire la città li ama e voi siete protetti da loro. Devo dire che Franca è stata la prima persona che ti ha dato tutto ciò. Io non so che altro dire, ringrazio tutti e scusate, ma io molto più e sono tornato di più. Io penso che Franca, con questa conclusione nel nome della Torta di Muglia e dell'accoglienza e della solidarietà, sia più contenta di tanti altri ragionamenti. Io ringrazio tutti, giusto? Vedi che stiamo imparando. Volevo soltanto dire in conclusione un piccolo ragionamento che è questo. Riscrivere la storia nel senso in cui abbiamo cercato di farlo stasera è doveroso, ma non per sminuire, come pensa qualcuno, la vita delle persone reali o i valori per cui quelle persone hanno combattuto, ma esattamente per il contrario, per costruire una scintilla positiva in modo che ci sia sempre una resistenza, che ci sia sempre una resistenza in grado di salvaguardare la libertà di tutte e di tutti, e soprattutto di saperla sviluppare in tempi in cui, come in questi giorni assolutamente tristi, sembra essere di nuovo in discussione. Vedete, qualcuno l'altro giorno, quando durante la cerimonia di Matteotti, ho citato su Maria Sacco, poi ci siamo lasciati con un appuntamento che nel pomeriggio ci saremmo ritrovati al primo Dolomiti Pride di queste terre. Qualcuno mi ha guardato sconvolto e ha detto: ma cosa c'entra l'Ampi con queste cose? E io rispondo: l'Ampi, l'ANED non hanno fatto la fine di associazioni folcloristiche, combattentistiche e altre cose di questo tipo proprio perché ci sono, laddove serve affermare il diritto alla libertà di tutti. Spero che ci vorrete dare una mano tutte e tutti a fare questa cosa. Ovviamente fa parte di lotte quotidiane, ma anche la memoria fa parte di queste lotte quotidiane, e quindi tutte le cose che abbiamo detto stasera sono già trasformate in un apposito documento che presenteremo nei prossimi giorni al sindaco. Noi abbiamo un'agenda di lavoro con il comune di Bolzano e con la provincia autonoma di Bolzano, un'agenda istituzionale, si chiama agenda di lavoro, prima era agenda di lavoro 2018, abbiamo fatto molte cose, adesso è diventata agenda di lavoro 2020 e tutte queste cose ci saranno dentro e sarà il nostro impegno realizzarle. Grazie a tutte e a tutti. Ovviamente, chi volesse fare la testa delle altre, non ha più la chiesa.